Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori, buona giornata anche a coloro, ai 200 che hanno inviato le ricette con ingrediente il pomodoro. Diciamo che era questa gara che avevamo lanciato la settimana scorsa, che rientra appunto sotto il nome di Personal Chef, che continuerà anche nelle prossime settimane, e l'ingrediente della prossima sarà il riso, quindi lo annuncio già da ora. Potete già inviare le ricette a gastronauta@radio24.it. Eccoci quindi al, diciamo, come posso dire, al consuntivo finale. Abbiamo con noi qui proprio in studio uno chef importante, bistellato, che è Claudio Sadler, che ringrazio. Grazie Claudio di essere qui. Grazie a te di avermi ospitato, è un piacere. Quindi ho sottoposto a lui appunto quelle che noi avevamo già scelto, perché prima bisognava fare una scrematura, e visto che le ha selezionate ha fatto delle annotazioni con molta molta attenzione. E oggi però parleremo anche di pomodoro, non solo di queste ricette, ma visto che l'ingrediente era il pomodoro, andremo a scoprire quali sono le qualità del pomodoro, quali sono anche i trucchi per utilizzare il pomodoro e addirittura per riciclarlo. Quindi, cari radioascoltatori, numero verde 800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Allora, caro Claudio, diciamo che una delle quattro scelte è una ricetta che si chiama Pomodorino pieno di sé, di sì, Patrizia Pinzauti. Allora, ce la commenti questa ricetta? Allora, tutte quelle che ho visto, fra tutte quelle che ho visto ce ne sono un po' che mi hanno, diciamo, incuriosito e mi sono piaciute molto. Questa di Patrizia Pinzauti di Firenze è molto carina, perché intanto il titolo è divertente, pomodoro pieno di sé, quindi dice lavora tutto sul pomodoro, quindi ha fatto un bel lavoro, perché comunque ha preso due pomodori importanti che sono il San Marzano e il Pachino e li ha praticamente svuotati, li ha preparati, ha fatto come una pappa al pomodoro, poi gli ha messo su un trito di farina gialla e rosmarino, li ha ripassati in forno a 180 gradi, e quindi alla fine mi sembrava una ricetta divertente, perché poi alla fine aggiunge dell'insalata e quindi una bella cosa, senza troppi cose di complicatezza, ha creato un piatto pieno di sapore usando questi pomodori che sono tipici del nostro paese. Beh, diciamo che sono tanti i pomodori, perché sì, il costoluto, il datterino, il ciliegino, il perino, il cuore di bue, poi potrei continuare a lungo, abbiamo veramente una varietà incredibile. Però volevo tornare un secondo sul titolo che tu hai detto divertente, in effetti è molto divertente. Poi sentiremo anche, sarà in collegamento con noi una linguista che sempre più si sta specializzando sul cibo, dell'Università di Modena, Cecilia Robustelli, alla quale ho fatto analizzare anche un po' le ricette, perché ce ne sono due in particolare con delle cose completamente inventate, devo dire molto spiritose, devo dire una ricetta inesistente, però divertente, perché voglio dargli una nota di merito. Allora passiamo alla seconda ricetta, che mi sembra sia sandwich di pomodoro confit e sì, gamberi su vellutata di basilico, di Giacomo Burlotto. Esatto, questa sandwich di pomodoro confit e gamberi, sì, perché io, cioè, diciamo che il nome dell'info è Giacomo Burlotto, però è firmata Elena Buscaglia. Probabilmente Elena Buscaglia ha usato appunto il sito proveniente del marito. Ah, ho capito. Allora, ci commenti questa? Allora, intanto, come dicevo prima, eravamo a Firenze. È divertente perché c'è un po' tutta l'Italia, no, che ha partecipato, e ognuno ha dato un taglio particolare. Questa di Genova ovviamente è andata a raccogliere le sue idee al mercato del pesce e della verdura, roba che in Liguria è molto buona, e ha fatto questo sandwich con questi gamberi. Diciamo che diventa quasi più importante il gambero, perché il gambero ovviamente è molto, molto centrato come prodotto, però diciamo sicuramente sovrasta quello che è il valore del pomodoro. Però poi fa una salsa con olio, pinoli, basilico, e quindi queste fettine di pomodoro che sono pomodori San Marzano maturi, sodi, vengono spellati, vengono fatti confettare un attimino in forno a bassa temperatura, 80 gradi per 30 minuti, in modo tale da concentrare il succo del pomodoro, eliminare quell'acqua che non serve e avere una concentrazione di sapore. Gli mette dentro questi gamberi e poi gli fa questo pesto tutto intorno, quindi rimane abbastanza nella tradizione, però con quel tocco di creatività che fa di questo piatto veramente un piatto interessante. Bene, diciamo cosa vincono. Vincono la collana completa, 12 volumi delle guide del gastronauta, quindi questi quattro che poi selezioneremo, daremo i nomi anche degli altri due. Ma nel frattempo sentiamo Augusto dalla provincia di Viterbo, un radioascoltatore. Buongiorno Augusto. Buongiorno, io volevo dire, di pomodori i nuovi ibridi non c'hanno quel sugo che c'avevano il Pantano, il Casalino, il Principe Borghese. E se uno può fare il pane e il pomodoro, non c'è sugo, sono duri. E non hanno quella bontà che avevano le vecchie e qualità dei pomodori, così come tutte le altre piante fruttifere, diciamo. E io sono innamorato del Pantano o del Casalino per cucinare, e il Principe Borghese per fare una bella bruschetta, oppure il pane e pomodoro d'inferno, c'ha tutto un altro sapore, è in sapore il ciliegino, si mantiene di più, siamo giusti. Però non c'ha quelle qualità organolettiche che c'ha il Principe Borghese, perché c'hanno un sugo non indifferente e te bagna il pane, quando uno bagna il pane. Augusto, lei mi fa venire fame. Comunque la ringrazio di questa telefonata, perché lei ci ha dato così uno specchio sul passato molto interessante, sulle varietà del passato. Meriterebbe un premio anche lei, Augusto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di pomodoro e a ricordare le ricette dei quattro radioascoltatori che hanno mandato personal chef con base il pomodoro. Bene, io ricordo, potete intervenire cari radioascoltatori, come ha fatto questo simpatico Augusto che ci ha dato così varietà, secondo me completamente dimenticate, come il Principe Borghese. Devo essere sincero, mai sentito. No, anch'io mai sentito. Numero verde comunque sempre, chi vuole intervenire, 800 24 00 24. Bene, come dicevo, abbiamo con noi anche uno chef diciamo del sud, di quella zona dove la Campania, dove il pomodoro è importantissimo, così come lo è in Sicilia, ma anche in Campania. Gennaro Esposito, buongiorno Gennaro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Vabbè, Gennaro. Abbiamo qui con noi Claudio Sadler. Claudio, buongiorno. Buongiorno a te. Senti, innanzitutto so che tu hai aperto da pochi giorni un ristorante a Capri che si chiama Mamma. Questo cosa ricorda? Una vecchia ricetta di mamma per fare la salsa o la passata? Vabbè, ma in generale la cucina di mamma è un po' quella che ci portiamo tutti quanti appresso. È il primo sapore, il primo gesto di cucina che vediamo, per cui per me era importante fissare e rendere omaggio a questo. E qui oggi stamattina sono a Capri e qui è un posto meraviglioso, è un posto magico, è inutile che ve lo dico, ma noi che lavoriamo in cucina usciamo sempre poco dalle padelle, dalle pentole, però quando si sta qui si accorge che l'Italia sì, è un posto meraviglioso. Senti, insomma, Gennaro, volevo chiederti questo. Io ho sentito una volta proprio che tu eri in collegamento con me e hai detto per combattere l'acidità del pomodoro non va bene lo zucchero, ma molto meglio il limone. Così? Avevo capito bene? Sì, perché praticamente se noi vogliamo l'acidità intesa come pH e l'acidità intesa come gusto non sono proprio esattamente la stessa cosa, per cui mettere lo zucchero non è tanto dare dolcezza, ma è piuttosto banalizzare, piuttosto appiattire poi il gusto del pomodoro. Partiamo dal presupposto che se noi scegliamo un pomodoro in stagione perfettamente maturo e lo cuciniamo come si deve, non c'è bisogno di metterci niente, questo è l'obiettivo principale. La stessa cosa vale per le aziende che trasformano il pomodoro. Se loro scelgono i pomodori di qualità e li trasformano nel periodo giusto, senza pomodori marci o troppo maturi o troppo acerbi, alla fine il pH del pomodoro è un pH estremamente equilibrato. Il problema si pone quando la materia prima non è buona e quindi lì bisogna correggere per due motivi. Uno, perché il pH, l'acidità è un conservante naturale e il pomodoro naturalmente ha il suo pH. Infatti noi facciamo tutti i pomodori a casa, mica ci mettiamo i conservanti, voglio dire, e basta sterilizzarli e siamo a posto. Quando invece non ci sono più le condizioni di qualità, di selezione, allora a quel punto va corretto, va aggiunto normalmente dell'acido citrico, no? Quindi quello bilancia l'acidità dal punto di vista della conservabilità. Se parliamo di acidità dal punto di vista di gusto, allora chiariamo che il pomodoro è acido nella misura in cui non è perfettamente maturo, non è perfettamente selezionato. Se no, non lo è. Il problema però dello zucchero è, se vogliamo un prodotto dolce, allora è un altro lavoro, questo voglio dire. Bene, Gennaro, ti ringrazio per questa lezione sul pomodoro e ti auguro bene, a presto. Sentiamo Arianna dalla provincia di Padova, una radioascoltatrice. Buongiorno, io sono una di quelle che ha mandato le ricette, però purtroppo non sono stata scelta, evidentemente. Il pomodoro è il mio ortaggio, ma proprio posso anche dire così, il mio alimento preferito. Io lo mangio tutti i giorni, mezzogiorno e sera, lo mangio anche così a crudo. E ecco perché ho chiesto di partecipare proprio oggi. Ma è buono sia negli antipasti, nei primi, ma anche nei dolci. Il pomodoro ovunque, con un po' di zucchero, ovunque caramellato. Sadler dice ovunque, ovunque, si possono fare anche dei dolci? Ovunque. Assolutamente sì. Ovunque, sì. Senta Arianna, sì. Arianna, lei come fa a sapere? Abbiamo ancora due ricette, quindi non può sapere se non... Lei non può ancora saperlo, comunque se non verrà diciamo scelta tra le prossime due, mi raccomando, insista la prossima settimana con il riso. Tra l'altro ho un SMS che mi chiedono se sono state selezionate tutte le ricette, le prime 50. Beh, abbiamo fatto una grande fatica, quelle di stamattina, perché sono arrivate anche due ricette stamattina era impossibile, però devo dire che ho trasgredito un po' a quello che erano gli ordini iniziali. Diciamo che le abbiamo selezionate fino a venerdì, quindi sicuramente c'è stato un'ampia selezione. Grazie tante a Arianna. Buongiorno, ma io voglio chiedere a Salder e a Claudio, che prima mi diceva che si può fare anche col microonde. Sì, certo, ovviamente si può cucinare, fare una salsa di pomodoro in pochissimi minuti senza sporcare la cucina, senza sporcare padelle, prendendo i pomodori datterini o anche dei ciliegini, dei pachino abbastanza maturi, si mettono in un contenitore di plastica con olio di oliva extravergine, sale, due fettine di aglio e un pochettino di basilico, si chiude tutto in pellicola e si mette in microonde alla massima potenza 15 minuti. Alla fine si fa leggermente raffreddare il tutto e si raccolgono quella che è la parte solida, si frulla con il mini pime, raggiungendo gradualmente l'acqua di vegetazione che ha fatto durante la cottura il pomodoro, e si otterrà una salsa veramente molto molto buona e molto dolce. Bene, grazie. Quindi abbiamo un'ulteriore ricetta, cari gastronauti, cari radioascoltatori. Arrivano molti SMS, sono di carattere molto medico, diciamo. Quindi io ho sempre detto che questa trasmissione, insomma, non ci inoltriamo in campi così che sono a noi un po' nascosti, ma mi parlano di disturbi all'intestino, mi parlano di altri problemi all'organismo. Bene, questi li lasceremo a essere benessere, quindi noi non li trattiamo perché non siamo preparati su questo argomento. Però io ora ho un altro ospite interessante, e ho Fabrizio Dani, che è presidente del gruppo Ricicla e ordinario di chimica del suolo, perché all'Università di Milano. Perché questo? Perché recentemente ho letto che si possono ottenere attraverso un riciclaggio, quindi, gli effetti positivi dalle bucce di pomodoro. Professore, ci dà qualche indicazione in proposito? Sì, buongiorno a tutti, a lei e ai suoi radioascoltatori. Sì, sostanzialmente è un po' l'anima che ci portiamo dietro da molti molti anni, punto di lavoro, quello appunto del pallino del riciclo. Il pomodoro, paradossalmente, soprattutto gli scarti dell'industria, della trasformazione, i semi e le bucce, contengono alle volte dei principi attivi in modo più significativo addirittura della polpa. E quindi ad esempio parliamo di licopeni, caroteni, tocoferoli, quindi tutte molecole che hanno delle proprietà sicuramente antiossidanti e che ormai trovano anche impiego nella formulazione di prodotti di cosmesi, di bellezza, nutraceutico, ma anche di uso farmaceutico. Quindi questo è senza dubbio importante, se teniamo conto che questi scarti poi per smaltirli hanno un costo. Quindi sicuramente diventa interessante, da un costo di smaltimento invece un recupero sostanzialmente delle proprietà che finora avete anche indicato, non solo diciamo organolettiche ma anche di proprietà sicuramente indispensabile appunto per la vita appunto dell'uomo e di protezione anche di quelle che sono le nostre normali funzioni, soprattutto le proprietà antiossidanti sono sicuramente le più importanti. Professore, vuol dire quindi che del pomodoro non si butta via niente? È come si dice, come diciamo noi agricoli, io sono un agronomo ma ci chiamiamo spesso e volentieri scherzosamente, noi appunto agricoli del maiale non si butta via nulla, ma neanche del pomodoro si deve buttare via nulla. Questo è sicuro ed è la cosiddetta nuova bioeconomy o green chemistry, si recupera tutto, si va a produrre non più dal petrolio ma da tutto quello che madre natura ci dà. Professore, visto che lei è un agronomo esperto del suolo, ma il pomodoro si può coltivare ovunque? Bah, sostanzialmente sì, non è una pianta che crea grossi problemi. La zona d'elezione è sempre stato il sud Italia, ma diciamo che ultimamente anche nel nord Italia, la zona del Cremonese e via dicendo, è diventata una zona con elevata produzione di pomodoro, soprattutto da industria. Quindi il sole del sud sicuramente l'ha fatta sempre appunto da padrona, ma il pomodoro viene abbastanza appunto prodotto da tutte le parti. I nostri orti anche qua a Milano sono pieni di pomodori, ormai gli orti cittadini, cosiddetti orti urbani che vanno molto di moda, il pomodoro fa parte sicuramente del corredo dell'orto appunto cittadino. Posso confermare, perché nel mio orto cittadino il pomodoro diciamo è il prodotto vincente, quello che diciamo dà il meglio di sé. Assolutamente, grazie professor Adani. Ci mancherebbe, buongiorno. A voi, buona buongiorno. Giornata. Claudio, torniamo un po' alle nostre ricette, vediamo, cioè abbiamo la terza ricetta. 1000 foglie pomodori, dunque di calogero Rifici, che non ci dice di dov'è, però fa niente, io suppongo sia del sud, perché i prodotti che ha usato sono... Beh, sai, la palamita potrebbe essere anche della Ligure, Maremma, certo. Della zona Ma sì, Oliguro, di tutto quel terreno, lì. Terreno sì. Però diciamo la preparazione mi sembra un po' così, perché comunque ha usato in questo caso il cuore di bue, che è un ottimo pomodoro, può essere tagliato anche come con la fettatrice molto sottilmente e fa diciamo dà un bel sapore a tutto quello che ci abbini insieme. Qui la ricetta praticamente utilizza le cipolle tagliate molto sottilmente e fatte leggermente marinare, la palamita, anche questa passata in una salamoia di sale grosso, fatta marinare per circa 12 ore. Poi pulita, lavata e la palamita è messa in vasetti con dell'olio extravergine d'olive e lasciato a marinare a sua volta nell'olio per circa 24 ore, adesso non ricordo bene, però qui c'è scritto così, e poi alla fine fa di questi di tre ingredienti, quindi del pomodoro, cuore di bue, la palamita e la cipolla, fa una stratificazione di tre volte di due volte tutti gli ingredienti, come se facesse una torrettina, e poi alla fine lo condisce con dell'olio extravergine di oliva e alla fine mi sembra olio extravergine di oliva e basta. Il gastronauta. Pomodoro in tutte le salse, come avete sentito. Bene, io invito i nostri, diciamo, radioascoltatori che hanno inviato le ricette, quelli anche che non sono stati scelti, magari a protestare perché non sono stati scelti. Insomma, possono intervenire. E di fatto il calogero che abbiamo citato sulla ricetta appunto di cui stavamo parlando è in linea con noi. Beh, abbiamo scoperto calogero prima che lei chiamasse, che parlava di Portoferraio, quindi è giusto palamita e Tirreno. Buongiorno calogero. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Buongiorno. Io sono livornese e ho scelto la palamita perché è un presidio slow food della Toscana. Ho voluto far conoscere questo pesce che purtroppo non è molto molto apprezzato invece a delle caratteristiche. Ma guardi, io ne ho parlato spesso, come succedaneo del tonno ne ho parlato spesso. Sì, prego, ma prego. Io l'ascolto sempre. Prego, prego, prego. Continui pure. Ho abbinato tre gusti con tre preparazioni diverse. Da come si evince dal mio nome, io sono di origine siciliana, quindi ecco. Il pomodoro è... Avevamo qualche dubbio, mio... certo. Il mio preferito, mangio il spessissimo pomodoro. Poi la cipolla e poi gli agrumi per marinare la cipolla. Esatto. Bene. Tipicamente sicuri. Beh, come hai visto, è stato apprezzato. Volevi aggiungere qualcosa prima sulla ricetta o avevi chiuso la tua considerazione? No, appunto, siccome avevo detto che non sapevo di dove fosse Calogero, diciamo da un'indagine del nome mi sembrava del sud, poi ho letto più attentamente perché ce ne abbiamo lette tantissime Portoferraio, e quindi è venuto subito immediato il discorso della proprietà diciamo territoriale della Toscana. Poi ovviamente qui leggo che c'è il timo, c'è il rosmarino, cioè, ci sono tante spezie, tanti profumi che fanno di questo piatto un piatto molto interessante. Bene, quindi Calogero, lei è stato scelto tra i quattro, penso sia contento, ma io ricordo ancora, se ci sono dei radioascoltatori che hanno mandato la ricetta, vogliono avere anche così dei pareri da parte di Sader, vogliono avere delle informazioni, prego di chiamare molto ma molto tranquillamente. Grazie Calogero e complimenti. Grazie a voi. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Grazie. Ora, come dicevo prima, abbiamo con noi Cecilia Robustelli, che è docente di linguistica italiana all'Università di Modena e Reggio Emilia e collaboratrice dell'Accademia della Crusca. Questo è ancora più importante, e alla quale io ho mandato delle ricette appunto molto particolari, con dei nomi molto particolari, e lei ha fatto una ricerca e ha letto anche moltissime ricette. Cecilia, cosa ne pensi del linguaggio? Dunque, io ho esaminato due ricette. Possiamo parlare un attimo di tutte e due? Sì, certo. Allora, senti e sentite, ascoltatori e ascoltatrici, la prima ha un titolo molto simpatico, un po' criptico, cioè lì per lì non si capisce bene, però se si leggono gli ingredienti emerge subito il significato. Il titolo è pomodoro trifibrico, quindi un titolo... Criptico. Io mi sono andato a documentare e alla fine ti ho chiamato perché non sapevo da che parte farmi. Ma analizzando mi sembra con tre fibre, se non... Bravo, bravissimo. Ecco. Se andiamo a leggere la ricetta, comprende ovviamente i pomodori, poi comprende riso, comprende orzo, comprende farro, e quindi insomma il nome poi emerge le tre fibre. Beh, quindi esatto. Complimenti a Daniela Olivieri, perché diciamo questo titolo ci aveva molto impressionato. Non è stata scelta tra i quattro, però c'è una citazione importante, e poi c'è una seconda che io voglio precederti un secondo, è molto spiritosa, è molto divertente, e questo radioascoltatore, insomma, come posso dire, si è divertito a inventarsi completamente un linguaggio e dei prodotti. Infatti, io dico molto simpaticamente all'autore di questa ricetta che è un bel furbacchione, ma che è anche una persona molto intelligente, secondo me, e anche molto colta, perché ha usato delle strategie per costruire questa ricetta raffinate. Cioè, lui ha inventato delle parole, ma non proprio di sana pianta, prendendo pezzi di parole e costruendo parole che sembrano vere, e le ha inserite nella grammatica dell'italiano. Quindi se sentiamo dire di usare un baroldo di almeno mezzo metro di diametro all'inizio della ricetta, uno di per lì pensa subito: che recipiente devo usare? Poi il baroldo non so che cos'è, perché se l'è inventato. Ma anche Maramandoli si è inventato. Anche Maramandoli, ma anche il Dulcineo, che sì, dovrebbe essere un vino secondo lui. Bene. È una tecnica di scrittura che hanno usato tanti scrittori famosi, per esempio le fanfole di Fosco Maraini, ma anche Rodari, ma anche Calvino, quindi insomma è un giocherellone colto. Bene, ecco, quindi complimenti a Guido Visentin di Caldogno in provincia di Vicenza. Grazie Cecilia, ma poi ti chiamerò anche nelle prossime settimane, ti ringrazio, sempre brava, grazie. Arrivederci. A presto. Sentiamo Antonio da Roma, un radioascoltatore. Sì, buongiorno Paolini. Buongiorno. Buongiorno, io ho mandato una ricetta, riguardava i pomodori di riso al profumo di mare. Volevo sapere, avere qualche suggerimento su questa, lo so, magari non le abbiamo lette tutte, ovviamente. Cioè no, le abbiamo lette tutte, però a Salder ne abbiamo date solamente un certo numero, perché se gliene davamo 200 si rifiutava di venire. Comunque la sua ricetta era, ce lo dica pure, dica se pure posso gli do una mano. Prego? Se mi racconta qualcosa di più della sua ricetta, cerco di intervenire. Avevo suggerito di fare i pomodori appunto di riso come si fanno a Roma, però anziché nel modo classico, inserito con dei frutti di mare e del pesce, ecco. Ah, va benissimo, non c'è problema, dipende come cuoce il riso, perché lo mette dentro crudo il pomodoro, poi lo mette in forno? No, metto il riso prima a bagno con sì? il succo di pesce, cioè sì? con il succo di pesce e con la polpa di pomodoro. Sì, e poi la cottura la fa finire in forno? Certo, certo. Non c'è problema, sì, viene comunque bene, l'importante è che ci sia una quantità di succo di pesce, tanto non fa la differenza l'acqua del pomodoro piuttosto che l'acqua del pesce, il riso si gonfia, cuoce e nel tempo necessario, che sarà circa una quindicina, 20 minuti, si gonfia e quindi il risultato è sicuramente eccellente. Ovviamente se si mettono dei frutti di mare o dei pesci tagliati piccini è meglio magari metterli poi alla fine, perché così si ha più succulenza del pesce, perché altrimenti tende ad asciugarsi un attimo, però va bene comunque. Bene, grazie Antonio di essere intervenuto e rimaniamo a Roma perché abbiamo un collegamento con noi un altro grande chef tristellato, abbiamo Heinz Beck della Pergola. Buongiorno Heinz. Buongiorno Davide, buongiorno ai ascoltatori. Bene, abbiamo con noi in studio il tuo collega Sadler, che è qui che ci aiuta. Ciao Heinz, come stai? Molto bene, grazie. Senti Heinz, io ti ho chiamato perché oggi parliamo di pomodoro e una sera sono venuto a mangiare da te con un collega, con un tuo collega, e tu ci hai fatto uno spaghetto e siamo rimasti, come posso dire, a bocca aperta, perché tutti e due ci chiedevamo ma come, cosa c'è in questo spaghetto, e questo tuo collega si scartava e diceva ma non riesco a capire. Alla fine te l'abbiamo chiesto e tu hai detto cotto quegli spaghetti nell'acqua di pomodoro. Sì, il collega era Massimiliano Allaimo. Perfettamente. Ecco, mi ricordo. Senti, ma l'acqua di pomodoro, cioè se tu devi dare così un consiglio ai nostri radioascoltatori, come si ottiene? Ok, l'acqua di pomodoro si ottiene frullando i pomodori con un pizzico di sale e poi mettendo dentro un canovaccio, facendo scolare l'acqua, così la polpa rossa resta nel canovaccio e l'acqua si divide e scende. E io do un consiglio di non usare un solo tipo di pomodoro, di usare sempre di più, uno per l'aroma, uno per la dolcezza e uno per l'acidità. Ti posso dare un piccolo consiglio? Se sì, tu come no. Scotti una volta che hai frullato i pomodori, li scotti un secondo, un minuto in padella, hai ancora più potenza di acqua, recuperi ancora più acqua. Sì, ma io non l'ho mai provato questo, perché comunque voglio sempre lasciare il pomodoro, se uso l'acqua, più naturale possibile, per non atterrare i nutrienti, perché il pomodoro che è cotto. Vabbè. Senti, comunque. Heinz, oltre a usarlo per la cottura della pasta, l'acqua di pomodoro si può usare anche in altra maniera? Sì, io lo uso per la gelatina, per la neve di pomodoro o anche per la mousse bianco di pomodoro, molto molto buona anche quella. Quindi cioè, diciamo che appunto del pomodoro, come dicevamo, non si butta via niente. Ma una volta ottenuto questo procedimento, diciamo, cosa resta del pomodoro? Ma solo il gusto e i nutrienti, che il fatto che per esempio per la gelatina o per la neve non va cotto, a questo punto non perde manco i vitamini, non perde niente. Bene Heinz, ti ringrazio, grazie. Ciao. Sei più italiano tu ormai in cucina di molti tuoi colleghi, italiani. Ormai utilizzi proprio tutto il meglio della cucina italiana. Grazie, a presto Heinz. Lo volevo aggiungere. Un abbraccio a tutti. Ciao Heinz. Io voglio sentire Alessandra da Orvieto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prego. Pronto? Sì, prego, prego. Grazie. Ah, intanto va bene, complimenti per la trasmissione, perché è bellissima, fatta benissimo e insomma ci insegna molte cose. Poi ho inviato una ricetta. Sì, sì. Ovviamente, rigatoni con pomodorini confitti. È una ricetta molto semplice, però io adoro la cucina, diciamo, molto semplice. E vabbè, probabilmente non è stata scelta, va bene così. Erano tante, però Alessandra, immagino, Alessandra, immagino. Alessandra, Alessandra, poi chiederò, sì, chiederò a Sadler di, magari lei rimanga in ascolto, come si fa, sì, il pomodoro confit, magari ci dà, perché ormai se ne parla sempre di più, si sente sempre più citare, specialmente ai ristoranti, e vediamo, vediamo a casa come si può fare, questo, questo tipo di prodotto. Alessandra, beh, si prepari alla prossima settimana, quindi la prossima settimana c'è il riso come ingrediente e magari cominci a pensare a questa ricetta e ce la invii al più presto possibile. Aspetti, pronto, colgo, sì, l'occasione anche perché voglio salutare il maestro Sadler, io, sì, ho partecipato a un corso di cucina e ho visto come faceva questi pomodori che prima ci ha trascontato nel forno a microonde, che sono eccezionali, cioè è veramente un grande maestro. Grazie, molto gentile. Grazie Alessandra, grazie Alessandra. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di pomodoro, ma vediamo l'ultima ricetta, diciamo vincente: caponata mandorlo e miele di Ivana Arico. Arico. Di Reggio Calabria. Bene. Allora, praticamente ha fatto una ricostruzione della caponata, però l'ha fatta un po' più cremosa, ma anche complicato un po' tutte le lavorazioni, però alla fine mi sembrava molto divertente, molto piacevole, perché intanto usi pomodori datterini, fa una crema di cipolle che prima viene cotta, poi aggiunge le melanzane tagliate a cubetti, poi i datterini, li fa stufare e aggiunge il sedano dopo, sulle coste le foglie, e poi in coperchia continua la cottura, mette l'aceto e mette il miele, con l'aceto, e continua la sua cottura, insomma, poi alla fine mette le olive, i caperini, è una cosa, e le mandorle per terminare sopra il tutto tostate in forno, le cuoce ancora un minuto a fuoco vivo, e pronto il piatto con una grattugiata di buccia di lime per tagliare quella che si dovrebbe intendere l'acidità, ma non penso che ci sia molta acidità in questa preparazione, ma solo per dare un po' di profumi. È una cosa carina, divertente, e quindi mi sembrava giusto citare questo piatto, perché pur essendo di tradizione è comunque fatto con molta attenzione. Bene, bene, io ora abbiamo con noi Ernestina Casiraghi, docente presso la facoltà di agraria dell'Università degli Studi di Milano. A lei volevo chiedere cosa introitiamo, cosa mangiamo quando mangiamo dei pomodori, seppur diversi tra di loro. Buongiorno professoressa. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Il frutto maturo è un frutto ricco di principi nutritivi, soprattutto di sali minerali, di sodio e di potassio, di vitamine, in particolare la provitamina A e la vitamina C. In realtà la maggior parte del pomodoro è acqua, per cui dal punto di vista calorico, con 100 grammi di prodotto si consumano solo circa 20 calorie. Vi era un po' di fibra, che fa sempre bene, e una certa quantità di zucchero, anche se modesta. Il sapore è dato soprattutto dagli acidi organici, in particolare malico e citrico, che danno le caratteristiche sapore. Ecco, volevo chiederle questo, diciamo che quando mangiamo un pomodoro fresco, quando passiamo alla passata, alle salse, cioè diciamo che i contenuti sono gli stessi o perdiamo qualcosa? Ma in realtà con i trattamenti termici, che sono quelli mediante i quali noi conserviamo il pomodoro, si riduce leggermente il contenuto in vitamina C, però per il resto la gran parte dei costituenti interessanti del pomodoro rimangono, per cui non è una controindicazione la conserva di pomodoro, e ci permette di consumare pomodoro nei periodi in cui il pomodoro fresco è poco reperibile, insomma durante l'inverno per esempio. Bene, io la ringrazio, grazie del suo intervento che ci ha chiarito molte cose e forse anche ha smentito alcuni luoghi comuni. Grazie, la ringrazio. Ok, salve, arrivederci, salve a tutti. Luigi da Catania, un radioascoltatore, buongiorno Luigi. Buongiorno a tutti, oserei dire che è una trasmissione deliziosa questa qui. Io abito a Catania e vado in vacanza a Pachino, Portopalo, una zona bellissima. Ho la fortuna di mangiare il pomodorino di Pachino in loco. Vorrei dire, spesso nei supermercati la gente confonde il ciliegino, il pomodorino. Il pomodorino di Pachino ha delle qualità specifiche. Io normalmente d'estate faccio un piatto semplicissimo, metto un filo d'olio del pomodorino di Pachino, lo faccio riscaldare per 2-3 minuti e condisco le busiate, che è una pasta tipica nostra, due foglie di basilico, un po' di ricotta salata, ed è un piatto buonissimo. Cioè, vorrei che si chiarisse il fatto che il ciliegino e il pomodorino sono delle cose, il pomodorino di Pachino è un'altra cosa, cioè è un altro tipo di prodotto. Bene, bene. Perché vedo che spesso c'è confusione. Lei ha ragione. Nei grandi supermercati. Lei ha ragione, ha perfettamente ragione, viene molto confuso e ormai quasi tutto viene chiamato Pachino. E purtroppo questo succede spesso, succede anche per molte volte per la cattiva informazione che ci viene data, non ci sono cartelli nei negozi, nei supermercati e negli ortofrutta. Grazie Luigi da Catania. Allora io voglio chiedere appunto a Claudio, come si ottiene il pomodoro confit? Beh, ci sono vari modi, no? Nel senso che si può fare o il confit in pelle, ovviamente si scelgono dei pomodorini che non sono molto grandi, se la dolcezza di questo prodotto è molto importante, quindi già un pomodoro troppo rigonfio non va bene per fare questa operazione. Comunque, se si prendono dei datterini oppure dei pomodori ciliegini o dei pachini, come vogliamo, si possono tagliare a metà e si mettono su una teglia da forno con sotto una carta da forno per evitare il contatto col metallo che potrebbe alterare leggermente il sapore del pomodoro. Si sala, si inzucchera leggermente o con uno zucchero semolato o anche uno zucchero al velo, delle foglioline di timo, un po' di olio d'oliva extravergine, se si vuole si può mettere qualche fettina di aglio o delle fese di, o delle, come si chiama, degli spicchi d'aglio schiacciati in modo da dare un po' di profumo, e si mette in forno a bassa temperatura. La temperatura non dovrebbe mai superare i 50-60 gradi, a seconda di che tipo di forno noi abbiamo a disposizione. Si lascia lì per quelle 2-3-4 ore in modo tale che l'acqua evapore e c'è la concentrazione del sapore. Se si vuole fare invece senza la pelle, si usano sempre dei pomodorini di piccole dimensioni, si sbianchiscono nell'acqua, acqua bollente, si getta il pomodoro, si rimette nell'acqua e ghiaccio, si leva la pelle e si procede nello stesso identico modo di cui abbiamo parlato poc'anzi. Bene, sentiamo Gabriella da Roma, una radioascoltatrice. Buongiorno Gabriella. Buongiorno. Io volevo suggerire, quando d'estate io faccio i pomodori nel barattolo, cioè li divido a metà, così come sono, senza farli bollire, e poi li metto nei barattoli, però li svuoto prima, e svuotandoli quest'acqua e semi io li metto da parte, poi li scolo, intanto faccio bollire poi i barattoli con il basilico in un grande pentolone, li faccio bollire. Li sterilizza? Come? Li sterilizza? Sì, sterilizzo, però l'acqua poi la trattengo, qui non butto l'interno, lo trattengo, ci faccio il riso, ci cuocio il riso, ecco, voglio dire che quell'acqua, come ha detto già la professoressa, giusto. È un'acqua da buttare, ma sono sali minerali, quindi il riso poi viene squisito, ecco, volevo soltanto dire questo. Io volevo aggiungere quello che dice la signora, no? Io con l'acqua del pomodoro ci faccio un riso pizza, ci faccio un risotto a cui alla fine aggiungo, proprio con l'acqua del pomodoro, aggiungo un po' di olio di oliva extravergine, del pomodoro e della mozzarella, e viene un risotto che ha il sapore di pizza. Bene, sentiamo Maria Grazia da Milano, un'altra radioascoltatrice. Buongiorno Maria Grazia. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Complimenti per la trasmissione, ho ricevuto ieri il comunicato stampa ma volevo ascoltarla. Volevo intervenire sul pomodoro. Allora, e confrontarmi un pochino con sì, voi. Sì, velocemente perché dobbiamo chiudere. Sì, sì, velocissima. Sì. Allora, io faccio tutto il sugo col pomodoro fresco. Per quello che riguarda i datterini e i pacchini, io faccio, li metto, li taglio prima in una ciotola, insaporisco con basilico, prezzemolo, quello che è, e poi prima di condire la pasta, proprio appena un minuto in padella. Mentre quando faccio il sugo di pomodoro con il cuore di bue, pelato chiaramente, io a parte ho sempre in cucina dell'olio extravergine di oliva ligure, però sì, dove metto a bagno, cioè dove tengo dell'aglio e un po' di peperoncino e del basilico e preparo il sugo con questo olio. Maria Grazia, ti devo interrompere perché devo chiudere la trasmissione, mi spiace ma devo dare l'annuncio, ti avevo detto che bisognava essere brevi. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori e magari già è venuta fame un po' a tutti, credo che oggi si mangi pomodoro, sempre pomodoro. Buon weekend a base di pomodoro da Davide Paolini. Buongiorno a tutti.